1988 avevamo messo due casse di gente, da 124 l'una, sembravano le scorciate di Samarco. Io sono la mia, io c'avevo tutto Alpine, c'avevo amplificatore Alpine, subwoofer dietro, poi c'avevo le casse da 200 watt davanti e dietro, in più c'avevo i midrange e Twitter. La mia sembrava una discoteca, la mia vibrava nei vetri, si alzava il volume, ma la giacca sentiva bene, proprio perfetta, il suono bello. Sì, sì, a quei tempi si facevano tutti questi impianti, nel 70, nel 74, avevo fatto questo impianto, l'avevo fatto io in collaborazione, vabbè, diciamo che lo ha costruito Roberto, ho fatto Roberto con un ragazzino, però ho collaborato anch'io perché, però avevamo fatto un impianto in via Betta, tu non l'hai conosciuto forse? Non mi ricordo, avanti il fischio. Ma mi ascolti? Ho sistemato il microfono bene. Io ti ascolto bene. Ah vabbè, con chi sei modulato? Sto modulando con Volpe. Lo sento basso di radio, segnale buono, ciao Volpe. Ciao, ben sentito anche a te. A che zona moduli Volpe? Zona Monteoro, diciamo, la zona Monteoro basta. Ah, ok, come ti arrivo? Beh, il segnale è abbastanza buono, forse la radio un po' bassina la trovo, forse non lo so. Bassina, è una bomba la radio. Bassina, portarne. Vito, io lo sento fortissimo di radio. No, lo sento basso di radio, chissà perché. Io lui lo sento basso di radio, lui le posso dare. Magari, non lo so, io ti sento fortissimo, Tonino, non posso dirti diversamente. Forte, bello. Ce l'ho tutto a manetto, a manetta, cioè, sia il microfono che anche il mic non mi innesca perché ho trovato la sistemazione già, quindi adesso sono perfetto. Raccontami cosa gli hai fatto. Ho spostato l'apparato che c'è in mezzo alle palle, il hangar si è messo tutto a destra, questo l'ho messo a sinistra, però ho ricatto perché giustamente non posso metterlo in piedi che mi tocca, devo smontare tutto se no. Adesso si addormenta, non funziona più. Però ha fischiato, Tony, lo sai. Cosa? Che ha fischiato per un attimo. Io lo so, gli studi fischiati, lo so. Ecco, adesso non fischia più. Ah, c'avevi altri apparati accesi. Adesso attacco io l'apparecchio col toner e vediamo un po' come va. E così li faccio girare un po' tutti perché sempre con uno non va bene. Dai, statevi 5 metri di tempo, continuate. Scappa, d'accordo, avanti Volpe. Ma tu dove moduli però? Zona San Camillo. Non so, siamo diciamo altini come io San Camillo non vedo, però c'è una collinetta che mi ostacola, però la radio la sento bene, chiara, ma è bassa come smetter. Segnale non mi interessa, la radio. Allora, tu segnale 6910, la radio bassa, ma bassa veramente, ma sto usando un mic normale. No, sto usando una 25 della ZG, la radio è una radio abbastanza consistente, insomma, dai. Se questa è la radio consistente che tu definisci. Guarda, io mi sento anche in cuffia e sono forte perché lo sento. Tu me l'ho confermato anche Gianni e anche altre persone, non so già com'è certo microfono. No, ti confermo che la radio la sento amplificata, bella, potente, però la sento bassa, nel senso non la sento proprio potentissima. Io, vabbè, sto usando questo microfono qua, che questo MVP5 non è che sia una grandicina, ma ho modulato sempre con questa e va bene. Sto usando un Turner Super Senior Kick, capito? Non so se qualcuno ci conosce. Sì, lo conosco. Io adesso sto usando lo stesso microfono con Vittorio. Aspetta che qua devo spostare il microfono perché è un casino. Ho troppa roba, ma troppa. Sì. Se pure attacco un'altra cosa, poi comincia a fischiare ancora di più. Ho inviato un po' di roba. Niente, devo modificare il mobile perché se ho il microfono in piedi non ci sta, è un casino, ecco di cazzo. La microfonia è molto importante, non va molto complicata. amplificata, perché va poi a rautinare, se si può dire, e proprio la vocalità. Il microfono deve essere tipo telefonico, questa è la modulazione bella chiara della radiantistica. Quando a un certo momento uno si trova a amplificare, va a finire che poi amplifichi e va a distorgere, questo è il segnale cattivo. Ma io ho leggermente abbassato il making in, capito? Quindi non sto certo, sono sparato, quindi ecco perché, siccome il microfono è troppo vicino anche al baracchino, qui automaticamente trovato parte esterno va a innescare solamente tutto. Se invece avrei trovato la posizione e modificare il mobile, allora potevo mettere anche manetta e sentirvelo forte. Ma metto che mi va bene così. Gianni, sei entrato. Ehi, Antoni, io adesso sto usando il Turner Super Sidney come te, dai. L'ho messo a posto perché non toccavano le lamelle e non usciva. Dimmi come sta andando adesso. Ma non è proprio al massimo già. Adesso è al massimo, guarda. Adesso sì, una bomba. Calma, calma. Questo qui lo sto usando con Cobra, dai. Vittor, come senti di radio? Allora, la radio mi piace più quella di prima, anche se era più bassa. Questa rimane troppo amplificata e va un pochettino a distorgere. Tu già lo sai, io di microfono mi capisco qualcosa. Capo, io adesso l'ho abbassata, guarda se va meglio. Adesso è perfetta. E vedi, dipende sempre dall'orecchio. Torino la voleva più alta, più bassa. Non sai mai come comportarlo. No, aspetta, non è che la voleva più alta. Ho detto, ma al massimo sì, certo, non adesso l'ho messo al massimo. Sai che come amplificazione, ho detto, ma tu stai già amplificazione, volevo sentire l'amplificato, capito? Comunque, perché siccome hai un microfono come il mio, volevo sentirlo tutto qua già. E così al massimo, Torino, poi non lo so se è come il tuo amplifico, se amplifica di meno, perché questo qua diciamo che gli ho toccato le lamelle perché non andava più, non riuscivo a uscire di radio. Lo so, mi innesca un po', così com'è il radio, aspetta, innesca, niente, ricordo, aspetta, se lo metto fuori, vedi, ecco, così va bene, sono al massimo già. Ho spostato il microfono, ce l'ho in mano, com'è? È un bel forte, dai, io ti sento molto forte, non lo so. Vittorio, avanti. Sì, adesso tu con questo aumento che hai fatto hai praticamente, come dire, superato l'amplificazione. L'amplificazione va sempre a distorgere, questo è chiaro. Sì, si sente forte, potente, però non è chiara, tende a raucidinare il... è come uno con la voce si arauco, capisci? La voce microfonata deve essere come la telefonia, come il telefono, chiaro. E ho capito che devi dire, Vito, adesso l'ho abbassato, guarda. Però. Adesso va bene. Ecco. Anda bene, ma qui si vede già. Sono microfoni dell'era spaziale. Diciamo che sono microfoni già obsoleti questi qua. Vanno bene, sì che vanno bene, poi ti danno problemi. E ogni tanto bisogna. Io gli avevo cambiato il cavo, insomma, l'avevo tutto ripristinato questo microfono perché vabbè, aveva già tutto quanto mangiato il cavo, eccetera, quindi ho cambiato tutto. Sì, ma a volte dipende anche dall'alimentazione. Io sto alimentando questo qua, non lo alimento più a pile, quello 9 volts. Lo sto alimentando con un alimentatore di telefonino, 5 volts, e funziona benissimo. Se lo aumento, se gli metto uno degli alimentatori a 8 o a 9 volts, va a distorgere, perché va alimentato giusto giusto. Questo dovrebbe essere per me. Questa è la mia modulazione, non la sentite che è chiara? Scusa, ma se metti 5 volts automaticamente stai sottoalimentando di quella che ti chiede la casa, che la casa ti dice la batteria 9 volts, perché diciamo l'impianto elettrico è stato costituito proprio apposta sui 9 volts, dai 5 volts mi è sottoalimentato. Mi hanno dato un secondo con te, però se tu controlli il motore a 5 volts, col tester, non ti dà 5 volts, se ne dà 7 e mezzo, quasi 8, è giusto, non bisogna fidarsi. Quando ti dicono 5 e 7, quando ti dicono 8 e 10, prova a controllare un alimentatore di telefonia, devi tagliare il cavo perché non lo puoi controllare, devi tagliare il cavo e controlli il più col meno dell'alimentazione, vedrai che ti dà almeno 2 punti in più. Sì, ma devo individuare qual è il più, capito? Se tu tagli il cavo, come fai a individuarlo? Non l'ho mai tagliato un cavo, quindi mi auguro che sia almeno uno nero e uno rosso per individuare, oppure uno grigio e uno nero. No, che dico io? Sono grigio, sono blu? Ma ascolta, quando tagli il cavo dello spinotto di alimentazione del telefono, ci sono 3 fili, di cui vai a vedere nel tester, tu non so che tester usi tu, se è analogico o digitale. Il tester analogico, quando metti le puntine dei cavi per controllare, se va a meno torna indietro l'ago, se va in più, il più è sempre dove metti il più. Ma io sono un apparato, faccio anche elettricista, c'è un tessere fisiopermetrico digitale, quindi non è a quelli analogici antichi che si usavano una volta, per carità. Ho messo la batteria per 9 secondi, mi richiede, dire una cosa, che la batteria questa qua ce l'ho più di un anno e ripeto, non ha mai, non si è mai scaricata, vuol dire che non c'è, diciamo, praticamente dispersione, è ultimo. No, su quello sono d'accordo, le batterie durano, ma io la batteria questa me le consumava, sì, duravano 5-6 mesi, la batteria 9 volte, la mettevo la dura, cioè non io mettevo batterie di CPU, però l'alimentatore è costante, l'alimentatore che sto usando io adesso perché non è liquido alimentatore, è piccolino, è un Samsung, e controllo e mi dà 7,5 volt ed è perfetto per l'alimentazione, perché se glielo metto a 9 volt un alimentatore che mi dà quasi 11, mi rovina il microfono, cioè capito? Ma io questo qua, microfono, anche il tarne, cioè il tarne, quello grigio famoso da tavolo, quello ma di un uso originale, tempo fa, 10 anni fa, l'ho sempre usato con la sua solita batteria, non mi ha mai rovinato niente, grazie a Dio. Vabbè, che comunque sto entrando anche poco a baracchino, non è che quando proprio non devo fare niente, perché sono molto incapparato da una parte all'altra, quindi vediamo se Gianni ha ripreso. Gianni? Ehi, allora, ero in bagno, 5 minuti, dai, già ho ripreso, già sono qua. Sì, ho ripreso, dai. C'è qualcuno che praticamente ne prende l'alimentazione dall'esterno, sì, lo fanno, però solitamente non ve lo so sentito di tu. Magari il tuo va bene così e lascialo così, però normalmente sono 9 volt. Io una volta l'avevo fatto andare con quei trasformatori regolabili che vendono, non so, trasformatori sono, non so, proprio alimentatori, che praticamente però a volte dava alternata, quindi l'ho tolto. Sì, vabbè, ci sono quelli che hanno alternato, no, ma vabbè, bisogna vedere se l'alimentatore è servizio continuo, perché ci sono alimentatori che sono servizio continuo e alternato, questo è servizio continuo, però ti voglio dire che l'alimentatore piccolino, questo che sto usando io, è giusto per questo microfono qua, perché se tu vai a controllare la batteria a 9 volt, non ti dà 9 volt, te ne dà 8, 6, 7 e 8, a 8 non ci arriva, anche se carica al massimo, non dà 9 volt, mi capisci? Quindi non è che la batteria da 9 volt ti dà 9 volt, prova a controllarla. Io l'ho controllata con te, se una volta dava 9 e 3 addirittura. Ma sono rarità, perché di norma non poi bisogna vedere se è nuovissima, appena arrivata, quindi dipende da quanto tempo è stata ferma. Se tu compri una batteria che è già un anno ferma in un negozio, lì perde, non ti dà più quella voltaggio. Io le misuro col tester sempre prima di metterle, c'ho il tester, misuro col tester e mi dà l'alimentazione giusta. Adesso per dire, l'altro giorno non uscivo col microfono e tutti mi dicevano, non stai uscendo, ma stai uscendo, e non ho pensato che fosse la batteria, ho pensato fosse il microfono, quindi l'ho smontato, ho messo un po' di spray per contatti, tutto quanto, e niente, lo faceva lo stesso. Beh, fatto sali, cambio la batteria, incontro la batteria, capo, lei ci aveva 5,6 volte, roba del genere, gli ho cambiato la batteria e ci do una bomba. Appunto, perché hai messo le batterie si esauriscono, ma l'alimentatore non cede, l'alimentatore o funziona o non funziona, e questo è il problema. Quindi se funziona è eterno, funzionerà sempre, poi se si brucia pazienza, vuol dire non mettere in alto. Beh certo. Avanti Tony, tu come l'alimenti il microfono? Sempre con la batteria che mi richiedono, anzi, e per non prendere il test, perché io già lo so, non so se me l'hai visto il mio test, ma e non prenderlo, togliere i cappuccini, sì, quello, quell'altro, ma e piazzarlo, faccio all'antica, metto la lingua, ma dove lo sta, ecco come la carica, ma dove ce l'ho da poco che la resisto, la batteria la butto via e metto una nuova. Io posso usare l'antica, mi fa la piglia a destra che non è giovana. Ormai sono in pensione, non c'è più che ne fa nulla. Tony, abbassa per la radio che è troppo forte. Abbassala un tantino. O devi allontanare dal microfono perché sta un po' strappato. Cosa stiamo dicendo? Io le controllo sempre. Quelle dure ce ne sono, quelle migliori, sono sempre più di 9 volts. Sono troppo buone quelle lì. Durano anche molto, ma mi durano anche un anno, poi le cambio, magari non sono scariche di tutto, ma le cambio lo stesso, un anno, però me lo fanno tranquillo. Guarda così la radio, ho abbassato un bel. Com'è? Va bene così. Ok. Avanti a volte. Sì, va bene con la radio. No, vabbè, l'alimentazione è importante, però quando tu azzecchi un'alimentazione giusta che va bene, è logico che io, ad esempio, se dovessi mettere un alimentatore a 9 volt, probabilmente questo microfono lavorerebbe anche meglio, perché dà più alimentazione leggermente, ma qua siamo a 7,5, è giusta, non necessita alimentarla proprio a 9. Lo sai perché? Guarda, ho fatto questi esperimenti, io uso i pedali, pedalini gli effetti del suono della chitarra, e li alimento tutti con un alimentatore a 9 volt, va anche a 12, però li alimento tutti a 9, ma li alimento a 9 con quell'alimentatore che ha un ampere, l'alimentatore c'ha un ampere, ma ne alimento 4 che sono tutti collegati in parallelo, quindi l'alimentazione di 4 di questi apparecchi vanno ad assorbire un quantitativo pari a quasi 1,2 ampere, quindi va giusto, quindi vengono alimentati tutti questi apparecchi a 7,5, quasi 8, e va benissimo, perché se ne alimento solo uno a 9, me lo rovina, gli dà troppa alimentazione, capito? Troppo voltaggio, per cui questa cosa bisogna capirla anche, devi avere un po' di intuito a capire queste cose, non so se tu, non voglio per carità fare dei pronostici su di te, perché non so se sei tecnico o che, però ecco, funziona così. Ma sai parlare con me o con Gianni? Beh, è un po' a tutti e due, ma a te soprattutto, perché hai parlato prima dell'alimentazione, dovevi limitarli a 9 volte con la batteria, quindi non volevi usare alimentatori esterni. Io ripeto questo, io compro un apparato, mi dice di usare la batteria a 9 volte, metto 9 volte. Non posso sopra alimentarlo perché automaticamente potrei bruciare il circuito. Non posso sopra alimentarlo perché mi darebbe una radio più schifosa. Quindi automaticamente mi dice batteria 9 volte, 9 volte la compro, la piazza, va bene. Io ho sempre dedotto questo dal 74 a oggi. E grazie a Dio mi è andata sempre bene, perlomeno. Non vado lì a usare certi caricabatterie di come hai fatto tu del telefonino. Non mi piglierì, non lo so, capito? E mi porto di me. Non sto lì a giocare su queste cose, ma a me che io anche il baracchino lo uso poco e nulla, perché proprio potrei trovare una o due volte alla settimana, se entro pure, o una volta al mese, non me ne frega niente, capite? Ho molti apparati, però messi in armadio, bombati, non me ne frega niente. Anzi, se riesco a vedere il tuo blocco, vedo tutto, me ne tengo uno, due, tu. Esatto. E niente, ti ripeto, ho visto, io ho sempre usato così, mai usare alimentatore fonte esterne per usare anziché la batteria, la batteria l'ho sempre usata. Non vorrei che poi mi pentirei o se sbaglio qualche cosa, brucio qualche cosa o circuito qualche cosa, quello mi dovrebbe fastidio. Allora uso la batteria in cui mi indica, diciamo, il libricino del microfono. Io Vito, solo in un microfono, il Turner più 2U da Palmo, quello azzurro e grigio, non so se tu l'hai conosciuto, montava quelle batterie da 7 volts che si chiamavano Mercury. Siccome erano al mercurio, le hanno tolte dalla circolazione e così a 7 volt non le trovavo. E stavo usando batterie di macchina fotografica che erano a 6 volt e usciva lo stesso bene. Ho già quel microfono celeste, stai dicendo, non è più 2. Sì, il Turner più 2U, quello grigio e celeste. Ecco, e molte persone che lo trovano più con la batteria, ho visto che mettevano anche col naso isolante la batteria quadrata quella 9 volt, eppure andava lo stesso. Ma era a terra, come non mi piaceva, io gli mettevo la batteria uguale a quella che usavano loro, solo che invece che 7 era 6 volt, e andava bene lo stesso. Io non l'avrei mai fatto, perché se mi dice 6 volt o 7 volt, non posso volere 9 volt, ma sono scherzato. No. Avanti di tutto. Sono d'accordo anch'io, per carità. Nella casa tu devi usare le pile, devi usare le pile. Ma l'elettronica non finisce con così, l'elettronica ha i suoi anche passaggi, no? Te ne devi anche inventare tu. Se tu hai la possibilità di conoscere un po' di elettronica e capire che un alimentatore che ti dà un certo voltaggio, mettendolo ad alimentare un determinato apparecchio, funziona bene, il problema qual è? Io lo so, questo alimentatore, un alimentatore di un telefonino che c'avevo roba di 20 anni fa, nel 2000 è questo alimentatore. Funziona benissimo, funziona sempre così, non ho mai ceduto, funziona, è perfetto, proprio fatto un po', sembra che sia nato per fare così. E quindi il batterio non cambia mai, è sempre qui, non consuma nulla, è elettrico. Esatto, vabbè, già va bene così, dai. Io niente, Vito, purtroppo, ripeto, no purtroppo, niente, poco purtroppo, io sono fatto così, diciamo non è che mi interessi più di tanto a dedicarmi molto sulla 27 perché, ripeto, non c'è il tanto, forse 25-30 anni fa era diverso, ma adesso è tutto cambiato la 27. Quindi per accendere e sentire qualche persona che non mi garba più di tanto e ascoltare non mi piace, non accendo neanche. A volte accendo e spiego subito, penso un po'. Non è che mi diletto più di tanto a approfondire su certe cose, no, quello negativo. Il mio approfondimento, diciamo, è su altra cosa molto, molto superiore alla 27. E forse già ne avrà capito che cosa, avanti già. C'è per le gambe di mezzo, dici. Ma ti volevo dire, tanto che hai accennato poc'anzi che dice sentenzione, e dico, ormai sono vecchio, ma invece cosa vuol dire? No, non sono vecchio, io non mi ripeto vecchio. E mi hanno sbagliato la nana, che l'hanno sbagliato. Sono in pensione dell'anno scorso, però non mi sento in pensione, capito? Perché non le dimostro per l'età che ho. Quindi tutto diverso, sono un tipo molto movimentato, molto... E quindi non è che sono un vecchio, nel senso sono in pensione ma non mi dedico più a stare lì mutato qua, diciamo, sui baracchini, quello no, io faccio tutte altre cose, molto, molto meglio della 27, Vito, tranquillo. Questo anch'io, non è che sono in pensione anch'io, non dall'anno scorso, da molto tempo che sono sempre a te. E quindi, no, io mi dedico invece, sono in questo luoghi della musica e mi diletto al suono e quindi sto a casa, faccio queste cose qua e poi la mia attività, poi abito fuori città, non è che abito in piazza d'Italia, abito in campagna, si può dire che è un paese dove abito io quasi, e quindi ho da fare. si lavora, faccio di tutto qui a casa, e faccio tutto via, e perciò anche io i miei hobby, e quindi me ne trago via. Beh, anche io non sono mai fermo, io qua ripeto, in giardinetto mi sono fatto un bel basamento di 3 metri per 2, alto 12 centimetri, ho preso di quelle casette smontate, quelle verdolino belle, e me la sono piazzata, tutto quanto, mi sono messo un sacco di attrezzatura perché facevo più posto, anche io abito in campagna, quindi. Ripeto, mi piace per tanti motivi, uno che c'è per affitto attaccato a casa, non devo fare scale, è una proprietà privata, c'è tanto di telecamera, il cancello automatico, fuori per l'altro, non vado a bisticciare per mettere la macchina a parte all'altra come faccio a Sassari, no. Io ci vado a Sassari solo a fare la spesa, a trovare gli amici come Gianni e qualche altro, e non più di tanto, ai parenti eccetera eccetera. Però ripeto, a casa ci sto poco e nulla. Avanti già si sposta spesso e volentieri. Si è sentato un attimo. Tu sei dove me, è uguale a me, è preciso, è un problema di macchina, io ho un ettaro di terra, abito qui, mi sono fatto la casa di sana pianta, ci ho due piani, adesso sto modulando dallo scampinato, c'è un'antenna tutta messa male, una Mantova 1 del 1975-76, mi pare, è vecchia, la cosa ha funzionato, mica funziona, quando la funziona più, figlio tutto, è per abbuduto. Niente, io ce l'ho 20 anni, la macchina ha 20 anni la mia, del 2002. È una Clio, se ci va, ma va fatto troppo bene, fin quando va poi si vedrà. E vabbè, che vuol dire, abbiamo preso due moto, grazie mille alle braccia matica, adesso sul terone, chi ci viene bene in alto, col rosso, e mi ha messo fracassato, e tu pensa che sono ancora in cura con l'ospedale, ho detto tutto, comunque mi sono ripreso abbastanza bene, dai, da come ero prima, per carità, tutto fratturato. Gianni, hai ripreso? Io già ho ripreso, dai, stavo attaccando questo apparato per vedere come andava. Ecco. Vedi, Gianni prima era più spesso e usciva qua e là, adesso c'ha dei piccoli problemi, e vado a trovarlo e a coccolarlo, a lui specialmente, il cane suo che mi piace troppo. Capa Tony, come esce la radio? Adesso si è leggermente, ho sentito un P. Lei mi stava ascoltando in cuffia, dai. Adesso è uscito l'ultimo. Capa, e adesso ho tolto tutto l'eco, dai, ho tolto tutto l'eco. Ma posso mettere anche il checco, guarda. Ecco, voi, Kawasaki, risacca il timone, capo, bobo. Bella comunque questa ultima già come radio, chiara proprio, mi piace molto. Sì, era buona. E allora questa qua è una radio, è stato fatto il microfono con una capsula di vecchia era che ci avevo conservata, gli ho cambiato la capsula perché usciva cupa di radio. Ma che cos'è, una capsula telefonica? Di telefono? No, è di un microfono. È una capsula di un microfono da tavolo, di quelli da tavolo che avevo, diciamo, demolito, e mi avevo preso la capsula tanto tempo fa e me l'ho conservata. Adesso l'ho ritrovata, l'ho riconosciuta perché è particolare, quindi se l'ho riconosciuta perché c'è anche il numero di serie sopra scritto, tutto qua, e l'ho messa, l'ho fatta mettere un amico e va benissimo. No, è una bella modulazione chiara, proprio mi piace, proprio questa è proprio la classica modulazione che piace a me. È 3009, non c'è niente da fare, 3009 è un apparecchio che si distingue tra tanti, dai, uno come ricezione è una bomba, va benissimo, sembra una stereofonica, la ricezione è perfetta e poi va bene anche modulazione. A te, io avevo il 4000 del Connex, poi invece l'ho venduto a firma mia zia, la verità. Niente, io la maggior parte c'ho stazione base, quindi mi piacciono di più questi baracchini piccolini. Infatti quello che avevo preso, ho già, che c'ho molti canali, tipo Gax Pluto, è sempre spento, ho buttato la parte, è piccolo, non mi piace, uso il Galaxy che è più grande, pure il President, è grande, tutto, è tutta un'altra cosa, è una roba piccolina, non mi piace. Sai cosa ti dico, di quell'era lì c'era buono, il coso, come si chiama, l'Airain Quinto, che l'ho avuto io, usciva un bel forte, era piccolo come apparato ma usciva fortissimo, ce l'avevo in macchina, era una bomba. E poi ho avuto il 120 canali, come si chiama, quello marrone della Lafayette, quello 120 canali, quello lì andava bene lo stesso. Adesso non mi viene il nome, ma comunque già mi viene pure. Guarda, io ho iniziato il primo baracchino che l'ho preso da Grassi, diciamo, si chiama via Principessa Maria, ho preso il Faccio 2030, 40 canali, il primo baracchino che ho iniziato a modulare, e poi ne ho girato a Bizzeffa, bello toccai 50-24 che col suo cicalino rompevi le balle a tutti, quello c'era la rosa verde quando metteva la portante, faceva un casino che... la portante d'oro, ragazzi, ce lo ricordiamo, in altri tempi. Avanti, Vito. A quei tempi c'erano degli apparecchi, poi è chiaro che si vanno come si dice, i transistor hanno un pochettino sgangherato tutto, perché i valvolari erano di una chiarezza, una limpidezza sulla modulazione, anche microfonica, perfetta, Purtroppo i transistor sì, sono belli tutto quello che vuoi, perché sono immediati, ma però sento quel gracchiare, non è limpido il suono. Comunque sì, il valvolare, io ho avuto il GX5000, non so se l'hai conosciuto, è meglio valvolare. Il barasole, tensione fissa, 40 canali, tutto ben provato. E poi non mi ricordo più che fine ha fatto. L'ha provato Piero Drago. Poi che fine ha fatto Piero Drago, non lo so chi l'ha dato. E ce l'aveva quel ragazzino tuono, mi ricordo benissimo. Piero era innamorato, non lo doveva mai. Salto io per la cazzata gliel'ho preso io e poi gliel'ho venuto a Piero. E allora si faceva anche il Portobello che canale 15, con Torre Chapelle. E mi ricordo un particolare famoso, quando Piero aveva offerto a Torre Chopin a fare lo scambio due belli altoparlanti per la macchina sua. E Torre Chopin dice, ma dimmi il mongo, cazzo mica c'è il dottor Zia. E la macchina tua la metti, ma dove? Cazzo, tutto questo vuol dire, nei sportelli, non le posso mettere perché? Perché non c'ho pannelli, nella bianchina. Comunque l'apparecchio Torin era l'MLS 200, quello che ti volevo dire io, uno degli apparati che vanno bene. Ah, l'ho avuto l'MLS 200, sì. Ce l'aveva anche cosa, Fischio? Toccai ne ho avuto due, Toccai 5024, tutti e due. Sì, sono messo, se c'è quel gomone nero intorno. Esatto, è blu metallizzato, ben bello. Molto bello come apparecchio, è bello mastodontico poi, di quelli resistenti, li usavano in barca molto. Aveva anche l'11 alfa giustamente, cosa che noi, col barecchino che abbiamo adesso, 10 kHz, praticamente ci vai già sull'11 alfa, capito? E poi ci sono altri canali alfa, non c'è solo quello, mi sembra che c'è anche il 15, il 23 o quanto cosa cavolo è, c'è apparecchi di canali alfa. Sì, ma a quei team, insomma, toccava 11 alfa, che non c'aveva 11 alfa, la modulava, uno se ne andava lì e ciao, non lo disturbavi più. Avanti, Vito. Ehi, K. No, questo che sto usando io ha gli alfa. 3, 7, 11, 15, 19. Questo che sto usando adesso. Però non ci va più nessuno in alfa. Va bene, noi ci possiamo andare con 10 kHz, con fare quello che abbiamo adesso. Se tu vuoi andare, andiamo, su che canale vuoi andare? Sull'11? 15? Vuoi andare su 15 alfa? Io su 15 alfa. Andate voi, perché io qua non ce l'ho l'alfa, non ce li ho gli alfa. Aspetta, un secondo solo, aspetta, già, torno subito. Eccoci qua già. E qua c'ho, diciamo, le bande laterali, tutto quanto, ma i canali alfa qua non ci sono, nel 3009. Ce li ho nel Galaxy, ce li ho nell'altro, però qua non ce li ho. E adesso a stare a attaccare un altro apparecchio per andare sulle alfa. Come non ce l'hai, scusa? Non ce l'hai il casino a 10 kHz? Boh, mi sa di no. Che mi ricordo io no. Ah, scusi, il coso, il clarifier, come voglio chiamarlo, fine cosa, eccetera, la parte all'altra e ti sposi i 10, quindi 10 kHz, Gianni, e ci arrivi so che tu c'è l'alfa. Prova a vedere, io vai. 15 alfa, ok?